Cruce mi sta attorno alla tua, e mi sta attorno alla tua. Colombina, schiudimi il finestrino, che a te vicino, di te chiamando e sospirando il povero Arlecchino. Fate vicino